l'amore fraterno perduri. Non dimenticate l'ospitalità. Per mezzo di questa, infatti, alcuni, senza saperlo, ospitarono angeli. Ricordatevi dei prigionieri, come se anche voi foste prigionieri con loro, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi siete ancora nel corpo. Il matrimonio sia tenuto in onore in tutte le cose, e il talamo sia incontaminato. Dio, infatti, punirà sia i fornicatori sia gli adulteri. La condotta sia lontana dall'avarizia, contenti delle cose che abbiamo al presente. Infatti egli ha detto: io non ti lascerò mai, né ti abbandonerò. Cosicché possiamo dire con fiducia: il Signore è mio aiuto, non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno predicato la parola di Dio, e contemplando l'esito della loro maniera di vivere, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi e nei secoli. Non lasciatevi trasportare da dottrine varie e peregrine. È infatti cosa buona rafforzare il cuore per mezzo della grazia, non dei cibi, che non giovarono mai a quelli che se ne sono serviti. Noi abbiamo un altare del quale non hanno potere di mangiare quelli che prestano il loro culto al tabernacolo. Infatti, i cadaveri degli animali, il cui sangue per il peccato viene portato nel santuario dal sommo sacerdote, vengono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo mediante il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo dunque verso di lui, fuori dagli accampamenti, portando il suo obbrobrio. Non abbiamo infatti qui una città permanente, ma tendiamo alla città che deve venire. Dunque offriamo a Dio, per mezzo di lui, un sacrificio di lode continuamente, cioè un frutto delle labbra che lodano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e di mettere in comune i beni. Di tali sacrifici, infatti, Dio si diletta. Lasciatevi persuadere dai vostri capi e siate sottomessi. Essi, infatti, vegliano per le anime vostre, dovendone rendere conto. Possano fare ciò con gioia e non gemendo. Questo, infatti, sarebbe per voi svantaggioso. Pregate per noi. Infatti siamo persuasi di avere una buona coscienza, volendo in tutte le cose comportarci bene. Vi esorto con più insistenza a far questo, affinché possa essere reso a voi presto. Il Dio della pace, che ha fatto risalire dai morti il grande pastore delle pecore, nel sangue dell'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù Cristo, vi renda pronti ad ogni opera buona, per fare la volontà sua, operando in noi ciò che piace ai suoi sguardi, per Gesù Cristo, a cui la gloria per tutti i secoli. Amen. Vi prego, fratelli, sopportate il sermone di esortazione. Vi ho scritto infatti brevemente. Sappiate che il vostro fratello Timoteo è stato liberato. Con lui, se verrà presto, vi vedrò. Salutate i vostri capi e tutti i santi. Vi salutano quelli dall'Italia. La grazia sia con tutti voi. Così sia. Thank you.